Respiro. Buongiorno da Cristina Carpinelli, bentornati a Respiro. Oggi parliamo di rivoluzioni locali, di ecosostenibilità, di energia pulita. Per nulla intimiditi dalle difficoltà, impegnati su più fronti, attenti al risparmio. Infatti sono gli italiani che stanno dando vita a una vera e propria rivoluzione ambientale, puntando tutto sul risparmio energetico. Noi di Respiro l'abbiamo chiamata la rivoluzione dei piccoli, che parte, come dicevamo, dai singoli cittadini, si struttura attraverso gruppi d'acquisto solidale, arriva a coinvolgere le amministrazioni comunali. Dunque il nostro paese nel locale sul fronte dell'energia sta diventando sempre più ecosostenibile, impegnato com'è nell'utilizzo di sole, acqua e vento per alimentare i borghi, i piccoli comuni, le scuole. E allora benvenuti a Respiro, e prima di entrare nel dettaglio vi ricordo che potete scriverci all'indirizzo respiro@radio24.it, potete mandarci segnalazioni, commenti, spunti e idee. Partiamo allora con i temi di questa settimana. Ci sono urgenti decreti da approvare, lo dicono non solo gli ambientalisti ma anche gli operatori di settore, lo dice soprattutto un dato che, come dicevamo, va incoraggiato, e cioè che l'Italia, con tutti i suoi piccoli comuni, dal 2006 al 2009 ha fatto registrare un autentico boom nell'utilizzo di energie rinnovabili, passando da 356 comuni a quasi 6.000, e di questi il 65% conta meno di 5.000 abitanti. Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie. Il 2008 è stato per l'eolico un anno record. Hanno una torre eolica a 245 comuni, il 3% dei piccoli centri, provvedendo al fabbisogno elettrico di 2.330.000 famiglie. L'energia prodotta dal vento è servita ad aiutare economicamente anche le famiglie più bisognose. Questo è accaduto a Sant'Agata di Puglia, in provincia di Foggia, dove i soldi che si sono guadagnati vendendo l'energia eolica sono stati distribuiti alle famiglie con figli nati dal 2008. Si tratta di 3.600 euro per nucleo familiare. La storia di Sant'Agata di Puglia è solitaria all'interno di un sud che sulle rinnovabili è ancora un bel po' indietro rispetto al nord, ma la rivoluzione è cominciata e ovviamente siamo tutti fiduciosi che si allargherà a macchia d'olio. In Sardegna invece stanno muovendosi i singoli cittadini, andando ad acquistare, grazie a gruppi d'acquisto, pannelli solari a prezzi scontati. Avviene così che nei comuni di Florinas, in provincia di Sassari, e Loceri, nella nuova provincia dell'Ogliastra, ci siano quasi la totalità delle abitazioni alimentate grazie al solare. I due centri si distinguono tra i 1.680 piccoli comuni ricorsi finora in Italia al solare termico, pari al 56% dei 2.996 comuni dove sono installati pannelli solari per la produzione di acqua calda, e il 28% dei comuni totali. Invece, in Trentino Alto Adige ci sono già i primi comuni italiani che vivono con il 100% di energia rinnovabile. Sono Dobbiaco, Prato allo Stelvio, Vipiteno, Brunico. Bernard Meyer, del Partito Popolare Sud Tirolese, è il sindaco di Dobbiaco. È stata un'evoluzione, non è nato da un giorno all'altro, no? Abbiamo fatto un salto di qualità nei primi anni 90, quando abbiamo realizzato una centrale termica a base di biomassa. Sì. E abbiamo allacciato il nostro paese a questa centrale termica. Cioè, all'inizio era più o meno l'80% delle case, adesso siamo praticamente al 100%, e abbiamo allacciato anche il paese vicino. Ed è una cooperativa, quindi ognuno, oltre a essere consumatore, è anche comproprietario e produttore, diciamo, dell'energia. E poi? Le centrali elettriche le avevamo già in parte, già da più di un secolo. In parte le abbiamo rifatte, in parte ne abbiamo fatto cose nuove, sempre cose che servono solo per il consumo qua nella nostra zona. E poi, quando sono uscite i primi impianti di fotovoltaici, abbiamo come comune cercato di investire sui nostri tetti delle scuole, eccetera. Abbiamo iniziato un po' così, e anche molta gente privata l'ha fatto. E quindi oggi, tutto insieme, si dà appunto questa possibilità di poter avere energia alternativa al 100%. Io penso che ogni paese ha un po' le sue caratteristiche, quindi bisogna anche, è difficile dare delle regole generali a tutti, perché ogni paese ha le sue caratteristiche, ha i suoi lati positivi e negativi anche dal punto di vista delle possibilità di utilizzare l'energia alternativa. Per questo, ad esempio, per le centrali termiche, io direi non tutti possono fare la stessa cosa che abbiamo fatto noi, non è possibile imitare al 100% quello che si fa da altre parti. Poi dipende un po', innanzitutto penso a livello locale, a livello di base è più facile lavorare, è più facile dare le informazioni necessarie, è chiaro che ci vuole un po' di sensibilità anche da parte degli amministratori. Sì, però diciamo la sensazione è che per avere le autorizzazioni bisogna fare un iter piuttosto pesante, cioè per voi è stato così? Ma sa che anche da noi, ad esempio quando abbiamo fatto la centrale termica, primi anni 90, era difficile anche nella provincia di Bolzano, cioè anche lì cercare di convincere i nostri amministratori a livello provinciale non è stato facile. Poi quando è stata una partenza positiva dei primi due o tre paesi, fra cui era anche Dobbiaco, è diventato tutto facile, diciamo, no? Quando la convinzione c'era. Noi avevamo questo grande vantaggio che abbiamo una realtà più piccola, nel senso che è più facile, certo, in una provincia come la nostra. Secondo lei nel sud Italia succederanno mai delle rivoluzioni come quelle di Dobbiaco? Devono partire dalla base. Secondo me deve essere la base. Da noi questo campo dell'energia è partito dalla base. Belle storie, tutte capaci di darci una bella sferzata di ottimismo, se non fosse che poi manca una vera e propria regolamentazione, cioè mancano ancora le linee guida per l'approvazione dei progetti di impianti da fonti rinnovabili. Linee previste da un decreto legge del 2003 e un decreto che eviterebbe disposizioni diverse di regione in regione. Serve questo decreto? Lo abbiamo chiesto a Francesco Starace, presidente di Enel Green Power. In parte così, e in parte dovuto al fatto che diciamo dietro la parola rinnovabile ci sono tante diverse tecnologie e modalità e conseguentemente un approccio unico è praticamente impossibile. Per ognuna di queste, ahimè, le nostre regole hanno diversità e quindi ci si trova ad affrontare percorsi diversi a seconda della tecnologia che si imbocca. E quindi i comuni di volta in volta si trovano incastrati nella possibilità di utilizzare certe risorse rinnovabili piuttosto che altre a seconda della loro località geografica, diciamo. Ecco, detto questo, però resta il fatto che per avere le autorizzazioni a volte si devono fare dei percorsi un po' troppo lunghi. Questo è vero, le autorizzazioni in certi casi sono molto onerose, mi riferisco in particolare alla mini idro, dove le difficoltà sono molteplici e dove gli enti preposti sono tanti, ma è soltanto uno degli esempi, ma diciamo tutte le autorizzazioni necessarie sono disciplinate, ahimè, in maniera diversa e a volte anche regione per regione ricadono in ambiti regionali non omogenei. Conseguentemente è difficile fare un manuale che valga per tutti, ma bisogna andare proprio puntualmente, caso per caso, a gestire la situazione a livello comunale quasi. E quindi il singolo comune, soprattutto se è un comune piccolo che magari ha un ufficio comunale diciamo, non proprio staffato e ha delle difficoltà oggettive nell'affrontare la complessità che ha davanti. Dai comuni alle imprese, cioè voi come Enel Green Power state assistendo a un cambiamento d'atteggiamento delle imprese italiane rispetto all'utilizzo di energie rinnovabili? Le imprese hanno, devo dire, da qualche anno a questa parte dimostrato una sensibilità notevole all'utilizzo delle energie rinnovabili, all'inizio soltanto come marchio, cioè come indicatore di una certa virtuosità nei confronti dell'ambiente nell'ipotesi in cui i clienti vedano meglio il prodotto se è prodotto con energie rinnovabili. In un secondo tempo, cioè quindi da un anno o due a questa parte, proprio come un modo per risparmiare sul conto e quindi abbassare l'impatto dei costi energetici. credo che questa seconda modalità stia adesso prendendo piede in maniera molto veloce. Ci sono sempre più imprese che ci contattano, parlo per la nostra esperienza naturalmente, per preventivi relativi all'installazione di pannelli fotovoltaici sui capannoni e comunque modalità geotermia e così via, modalità per limitare proprio i consumi energetici producendo in proprio parte dell'energia. A questo punto, se si stanno muovendo, diciamo, se questa rivoluzione sta partendo proprio dalla base e si sta verificando, come diceva lei, si incrociano appunto gli utilizzi di diversi tipi di energia, no? Rinnovabile, quello che mi chiedo è: c'è un'urgenza reale di spostarsi sul nucleare, ad esempio? Diciamo, non c'è un'alternativa tra le due cose, cioè la possibilità di utilizzare in maniera locale, in maniera distribuita tutte le fonti rinnovabili che abbiamo è una cosa che va colta ora, che va continuata a essere coltivata nel tempo e nei prossimi 10 o 20 anni ci vedrà man mano saturare il dispositivo di risorse naturali che il Paese ci ha, in qualche maniera ci mette a disposizione. Con ciò pensiamo che grossa parte della risposta per quanto riguarda l'energia in Italia possa venire da questa diffusione, da questo modo diverso di generare energia. Però un paese importante, moderno, con una struttura industriale di un certo tipo non può basarsi solo su questo perché non ce n'è a sufficienza. Quindi il nucleare è un'ottima risposta in quanto è una modalità di generare energia che va programmata ora per i prossimi 10-20 anni. È vero che implica importanti investimenti, ma anche mette a riparo dalle grosse fluttuazioni dei prezzi delle materie prime petrolifere che sono purtroppo non prevedibili e assolutamente pericolose per lo sviluppo armonioso dell'economia e il benessere di una nazione importante. Quindi le due cose sono assolutamente complementari. Senta, un'ultima domanda a chiusura di questa intervista, la rivolgo proprio un po' di servizio, nel senso quello che voglio chiederle è, stanno aumentando anche questi famosissimi gas, ormai li conoscono tutti, anche per quanto riguarda il fotovoltaico, no? Voi come Enel Green Power vi state muovendo, nel senso state sollecitando o comunque state sostenendo i singoli cittadini? Noi abbiamo una rete di installatori professionisti che sono affiliati in franchising alla nostra società che si chiama NLC, tutti gli installatori NLC, ce ne sono circa 400 in questo momento attivi in tutta Italia e sono questi installatori possono immediatamente, appena chiamati, presentarsi, fare un preventivo a casa propria e comunque sono in grado di svolgere un servizio completo dal punto di vista di autorizzazione e poi installazione dell'apparecchiatura sia fotovoltaica sia mini eolica, cosa che lanceremo da maggio, quindi le do un'anticipazione, sia nel prossimo futuro, quindi nel periodo autunnale, la geotermia distribuita, quindi le pompe di calore a scambio termico con il terreno. Buone notizie dunque, come avete sentito da maggio oltre al solare si potrà anche installare il mini eolico in casa propria, mentre di pompe di calore torneremo a parlare tra poco con il caso di un ascoltatore che ci racconta come dura la vita d'ambientalista in casa propria, soprattutto dal punto di vista economico. Respiro. Seconda parte di Respiro, bentornati, io sono Cristina Carpinelli, questa è la trasmissione di Radio 24 dedicata ai temi dell'ambiente e dell'ecosostenibilità come scelta locale. Stiamo parlando di piccoli comuni che riescono a provvedere al loro fabbisogno energetico, ma anche di cittadini che sempre più frequentemente in tema di energia fanno scelte coraggiose ed ecosostenibili. È il caso del signor Mario Francini che ci ha scritto all'indirizzo respiro@radio24.it, sentite. Nella ristrutturazione della mia casa nel 2006 ho deciso di fare una scelta tecnologicamente avanzata e all'avanguardia, di ottimo rendimento energetico, utilizzando fonti rinnovabili ed in più riducendo a zero l'emissione di CO2. Abito a Viareggio. Il mio impianto di riscaldamento aria condizionata consiste in 4 pompe di calore che alimentano 16 split che ho nelle varie stanze della mia casa, che è grande. La sorgente da cui prelevo il caldo freddo in due scambiatori di calore è l'acqua di falda a temperatura di 14-16 gradi in inverno e di 16-18 in estate. Ho infatti scavato due pozzi a regola d'arte. Tralascio i particolari di quando ho richiesto l'autorizzazione per fare i due pozzi per l'acqua. È finita all'italiana senza dichiarare il vero scopo d'uso, perché non si sapeva come definirli. Non ho metano in casa se non per cucinare, per cui è giustificata anche la mia affermazione di aver ridotto a zero l'emissione di CO2 per il rispetto dell'ambiente, dando così un mio contributo al programma del 20-20-20. La scelta fatta aveva per me delle conseguenze che consistevano nel dover pagare un poco di più sia per l'impianto che per l'energia elettrica. Dal 31 dicembre 2008 l'Autorità per l'Energia e il Gas ha introdotto le fasce di consumo anche per contratti come il mio e di conseguenza sono stato bastonato. Infatti, con le nuove fasce, mi ritrovo a pagare 10.000 kWh a 0,278 invece di 0,185, con un aggravio netto di 1.000 euro più IVA. Trovo assolutamente ingiusto essere penalizzato dopo tutte le decisioni che ho preso in favore dell'ambiente. Allora, partiamo dalla richiesta di aiuto di questo ascoltatore per fare il punto su tariffe e incentivi per l'utilizzo di energie rinnovabili. Abbiamo raggiunto Egidio Dell'Oste, direttore delle tariffe dell'Autorità per l'Energia e il Gas. Il fatto è reale, nel senso che la manovra che peraltro ha introdotto il cosiddetto bonus elettrico, il cui onere è a carico di tutti gli altri consumatori, ha penalizzato di più i soggetti che consumano molta energia. E in pratica quello che lei mi sta presentando è un caso di un cliente finale che consuma, un domestico che consuma un quantitativo di energia estremamente elevato. Siamo tra i 13.000 e i 14.000 kWh anno contro un consumo medio che è intorno ai 2.700-3.000. Pertanto lui ha ricevuto sicuramente uno svantaggio da questa manovra. C'è da dire però una cosa, mi pare di capire dall'istanza presentata che lui lamenti questo consumo eccessivo, ovvero lui abbia questo consumo eccessivo perché usa delle pompe di calore alimentate a energia elettrica. Esatto. Ma forse non sa il cliente che l'alimentazione delle pompe di calore può permettere una doppia fornitura presso l'abitazione, una dedicata alle pompe, espressamente dedicata alle pompe di calore. Vi piacerebbe svoltare e trasformare la vostra casa in una casa ecologica? Vi piacerebbe farlo spendendo anche meno rispetto a quanto già spendete in casa vostra? Usare detersivi ecologici, lampadine a basso consumo, insomma la casa ecologica potrebbe diventare anche la vostra? Se l'è chiesto la nostra Paola Nania, che è andata per noi a Ecopolis, la fiera sull'ecosostenibilità che si è conclusa ieri a Roma. Casa ecologica. Camminando per il padiglione 9 della nuova Fiera di Roma ci si imbatte nello stand più visitato e che più incuriosisce. Un allestimento che propone soluzioni diverse per rendere sostenibile l'abitazione e soprattutto risparmiare energia. Carlotta Fioretti di Avventure Urbane, progettisti dello stand. Ovviamente c'è un costo maggiore rispetto a una costruzione tradizionale che noi abbiamo calcolato attorno al 20-30% in più. Però in realtà questo investimento iniziale viene ammortizzato con quello che si spende poi per le bollette, diciamo, quello che la casa consuma, perché questa casa non soltanto consuma molto meno di una casa tradizionale, ma grazie al fotovoltaico permette anche di avere dei ricavi nel tempo, quindi entro i 15 anni io non soltanto ho risparmiato ma ci ho anche guadagnato. Entriamo dentro casa, abbiamo visto il verde, cos'è che possiamo trovare in una casa ecologica? Possiamo trovare ovviamente degli elettrodomestici che sono di classe A e che permettono di risparmiare. Troviamo anche un rubinetto che ti permette di mineralizzare, cioè di rendere l'acqua frizzante. Questo è un risparmio perché ovviamente l'acqua che viene comprata costa di più. E tre componenti fondamentali, ad esempio possiamo vedere il riscaldamento a pavimento, che è una tecnologia che permette di risparmiare anche sul consumo per riscaldare la casa. Come funziona un riscaldamento a pavimento? È una serpentina che sta che sta all'interno del pacchetto del solaio e quindi riscalda in maniera diffusa, quindi ho un maggiore benessere termico. E minore dispersione di calore. Esattamente, ovviamente la dispersione di calore è ridotta anche dai materiali che sono utilizzati per le pareti esterne, dall'isolante al tipo stesso di materiale che compone la parete. Ma se tante la curiosità, nei fatti è ancora difficile avere una casa ecologica. Chiediamo a qualche visitatore cosa faccia per risparmiare e rispettare l'ambiente. Sono in una famiglia dove non si tiene molto conto di tutto quanto, però ci proviamo un po' a poco. Come ci provi? Cercando di rompere un po' troppo le scatole sul fare la raccolta differenziata. Sì, io faccio la raccolta differenziata da 10 anni, però è vero che lavorando in un'agenzia ambientale non sono proprio un cittadino medio, sì, diciamo. Lei ci prova ad avere una casa? Sono esattamente nella stessa situazione, nel senso che chi lavora sull'ambiente poi in qualche modo è, non dico costretto, ma è geneticamente predisposto a fare il possibile per avere... E secondo la vostra esperienza è un'eccezione chi lavora per un'agenzia ambientale oppure si sta diffondendo una sensibilità nei confronti della casa ecologica, diciamo? Si sta diffondendo, direi, ma ci sono tante riviste che per esempio anche per una questione di risparmio, non solo energetico, anche proprio economico, consigliano degli accorgimenti che poi alla fine hanno impatto anche sull'ambiente. Ad esempio, non so, l'utilizzo del programma ecologico della lavastoviglie. Io prima non l'avevo mai usato, da quando l'ho letto lo uso sempre, ci mette 2 ore, però tanto lo faccio di sera, per cui, cioè, 45 gradi ci mette 2 ore. Però tutto sommato non mi costa... Mi costa sicuramente meno e sono più tranquilla e dal punto di vista, come dire, del disturbo non mi dà nessun disturbo. Qualche passo e scopriamo una macchina curiosa. Chiediamo spiegazioni a Lidia Signori di Ecologos, l'ente di ricerca che cura il progetto. È una macchina per distribuire i detersivi alla spina. Si porta o si porta da casa o si acquista il flacone la prima volta e poi si può ricaricare le volte successive. Ci sono diversi tipi di prodotti, sono prodotti ad alta biodegradabilità, non testati su animali. Quindi da un lato si risparmia non buttando bottiglie di plastica inutilmente, dall'altro il prodotto è comunque qualitativamente elevato. Quindi troviamo detersivi per il bucato, ammorbidente, pavimenti e piatti. E piatti, sì. E sono macchine che dovrebbero essere sistemati dove, tipo nei supermercati? Allora, il progetto con l'assessorato all'ambiente della Regione Lazio è partito un anno fa, proprio il 2 aprile, quindi è un anno di vita e attualmente sono attivi 31 punti vendita su tutto il territorio della Regione. Per maggiori informazioni si può andare sul sito proprio della Regione Lazio, sono elencati tutti i punti vendita. È un progetto in espansione per cui ci si augura che i numeri si espanderanno anche poi in futuro. E la macchina calcola anche cosa? Cioè ogni macchina calcola, che ne so, quanta energia si risparmia? Sì, su ogni distributore c'è un calcolatore dei flaconi ricaricati. Per ogni ricarica viene contabilizzata la CO2 non emessa in atmosfera, l'energia e l'acqua non utilizzate per la produzione e lo smaltimento del flacone di plastica vuoto che altrimenti verrebbe buttato o messo nella raccolta differenziata. Per gli interessati il sito da visitare è www.detersivisfusi.it. In chiusura di questa puntata di Respiro vi segnaliamo la pubblicazione del libro bianco sull'adattamento ai cambiamenti climatici approvato da Bruxelles, di cui torneremo a parlare nelle prossime puntate. Noi di Respiro abbiamo visto le anticipazioni e ci è sembrato, lo diciamo con rammarico, che ancora una volta sull'ambiente i governi nazionali e l'Unione Europea siano molto più indietro di quanto non siano, come abbiamo visto in questa puntata, i piccoli comuni e i singoli cittadini. Ma di tutto questo torneremo a parlare, adesso dobbiamo proprio fermarci, Respiro si conclude qui, potete scriverci a respiro@radio24.it. Buona giornata da Cristina Carpinelli.